oggi del nostro amico Claudio, mi ha dato un consiglio lui e ho risolto tutto quanto la questione. Va bene, dai, sentiamo dopo che consiglio. Buona carica a te se ce la risolva. No, l'ho già fatto, ho già accennato. Guarda, no, ti volevo chiedere una cosa, che tu sei in lontananza, guarda com'è. La così, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e cambio. Negativo, piccola verità, sì, un po' prima della la modulazione, quando attacco. Sono un cazzo, no? Sono compreso. Allora è così, la lascio così, dai, a tu, la lascio così. Sì, una bomba, arrivi a picchi di 9.30 e la radio 5. Va bene, grazie a tu. Ciao. Faccio ancora dopo, ciao. Non c'è niente da moralizzare. Non c'è niente da moralizzare, mi bisogna passare leggermente la coperta, ma ci sono problemi. Il tema tra stai guardando qualcuno che è competente più di me, capito? Dunque me la fai tu la regolazione, te la porto e me la fai e vediamo un po'. Scusa, 8 gradi a radio. ferma il tuo, aspetta un attimo. Così ripete troppo, no? Mi piace. Hola. Si è chiuso adesso. Ma chiuso, chiuso. Hola, 1, 2, 3, 4, prova radio, radio. Questa è la radio di Giuseppe o... Bolino. Però fa bella grossa la modulazione. Mi sembra che abbia la, la batteria scarica o non so qua, Michigan com'è, Michigan in tutta maetta. Tutta manetta, va bene, avanti Luca, ciao, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao a tutti. Aggiustata definitivamente? Sì, positivo, me l'ha già portata, capito? La sto provando io per vedere se va bene. No, l'eco non mi soddisfa a me, non so se è da regolare, non lo so. Già va bene, già. Dovrebbe essere aperto quella radio. No, ho capito, cosa hai detto? LC è aperto, è normale. Non lo so io, LC cos'è? Roba mania, questo l'ha toccato Fabrizio, ha cambiato quello che c'è da cambiare e basta, capito. Ma pensavo che, perché mi sembra che così c'hanno delle LC, cosa, però per la modulazione da dentro. Se tu che quella lì esce forte. Ah no, non so io come la situazione, dai. Va bene, Gianni Capridue, vieni avanti se mi stai ascoltando bene, cambio. Poi c'è anche Giuseppe Leoncino, poi vai per lui. Che bella modulazione che stai. E questo è il DM1000, dai. DM1000, capito? Giuseppe Leoncino, mi ascolti adesso, cambio. Sì, che ti ascolto, bra, ti ascolto bello forte. È entrato in break. Ti ascolto forte, bra. Dai, positivo, va bene. Avanti break, questo è l'Alan 48 Plus Multi di Giuseppe Tornado, l'abbiamo messo nuovamente in funzione con il DM1000, dai. A te Gianni, avanti, buonasera. Buonasera a tutti, doppio room, avanti Giuseppe, cambio. Grazie. Eia. Ah, come succede? Sì. È partito delle... e cosa? Per fortuna l'ho proprio distaccato il tempo, il trasformatore. Ah, vero? Troppo potente, è vero? Sì, troppo potente. Se una volta ci vuole un coso molto più grosso, c'è questo per fare così. Dunque, me lo compro e... Gli amati è partito proprio, oppure si può aggiustare? Ci potrebbe aggiustare un po' da Adriano. Mi dispiace Giuseppe, però io te l'ho detto da stasera. Guarda che è troppo poca la potenza che c'ha quello lì. No, vabbè, pazienza, ho trovato anche un altro che ne ha preso, però non mi dà la potenza di quella roba, l'ha fatto per buttare anche quell'altro. Ho previsto di staccare tutto quanto, capito? Ha fatto scaldare troppo sicuramente. E cos'è che hai bruciato Giuseppe? Mi ha rimandato. Chiaro, madonna, troppo basso, 10 ampere, quanto era? Non lo so, ma troppo basso per un lineare di macchina. Come sto va bene. Ciò esce bene. Ma non si può far uscire più forte, no? No. Scappa. A me bisogna aprirlo e poi devo mangiarmelo per uscire bene. Che bene. Aspetta, ti dico cosa devi fare. Allora, metti l'eco di lei a 10. L'eco di lei a 10. Adesso sei più forte, infatti. Allora. Tra 1, 2, 3, l'eco di lei a 10, però la ripetizione è brutta, non lo so, l'eco, non lo so se c'è. Sì, c'è. Metti la 3, 4. Ora. Così è a 3 metri, vai, no, va bene. Scappa. No, lasciamo andare così. No, ma il problema è che ti devi attaccare al mic, no? Sembra quando sto modulando con la 48, quello modificato, capito? Devi tenere il microfono molto attaccato per farlo suonare bene. Sì, questi sono così, è come se avessi un microfono normale, capito? Devi starci molto attaccato, se no qua, mi stacco e sono scopato. Ah, è proprio un difetto del microfono, vai. Allora, va bene. Non c'è problema, allora, già sono abituato, non c'è problema. Avanti, Giuseppe Delcino, cosa hai combinato? Io sono abituato a sentirti con il tuo alla 48. A confronto a questo c'è un abisso, è capito il cambio. Giuseppe, qua stiamo parlando di un microfono, di là parliamo di radio modificata, capito? Un'altra cupa. Va bene, però siccome non funzionava adesso funziona. Adesso lo sfascio con la mia modulazione. Se vuoi lo puoi far uscire senza eco, Claudio, mettilo a zero tutti e due. Ora, così è senza eco. Scappa. No, non va bene. E la voglia. Pippi non è no, anche la radio. Atto. Niente. Mi piace più con l'eco, vai. Ma non è dice fatto, si è a sé. Sai che non si è abituato. Ora. Cos'è fa cosa? Ah, ecco. Vabbè, dai, non ci sono abituato, è proprio vero. Claudio. Doia. Metti il numero uno e fallo sentire come si sente il grande baracchino, ala 48, e anche quello se lo mangia è cotto e crudo. E Giuseppe, questo è un baracchino normale, dai, col... proprio da salottino, ma a me piace la modulazione così che c'è Gianni, così leggera, capito? Già va bene. No, ma c'è, ho già un trimmerino all'interno, a cosa serve quello lì? Uno è per aumentare il volume dell'eco, l'altro per accelerare l'eco. Serve a niente quindi andare a toccarlo, no? Va bene così, le regolazioni sono giuste esternamente. No, se lo tocchi qua, uno che quei timbri lì sono ben delicati, si spaccano subito. E poi se lo tocchi non ci piace, mettelo come, visto come ha fatto Grode. No, non è roba mia, va bene così, dai, no, non ci sono problemi. Ok. Giuseppe, ma quindi adesso come stai facendo? Praticamente non funziona più l'alimentatore. È un negativo, non c'è quello che sta avvisando qualche valvolina oppure... Allora so, perché ho sentito un colpo tipo, adesso come ho distaccato tutto quanto e faccio tutto a posto, la faccio controllare, però ne procuro un altro, un alimentatore, e me lo faccio fare. È molto semplice, scritto, perché sono io a scuola, alimentatore ne ho anche a USA. Olio in cima, non è che ti ho portato anche lineare, no? Due lineari accende. Accende? Basta. Ma accende, funziona. Sì, questo mi sembra. Lo speriamo, se no hai fatto molto più danno. Lo so, no, ma come no, io credo di avermi bruciato la radio così a qua, non è capito. Allora avrei fatto più danno, invece se no, ma lineare quella roba là già accetto. Ma ti ascoltavo più forte del radio, prova a salire un pochino, aumenta un pelino. Il tono pure o il McKinney? No, il tono quanto ce l'hai, prova prima a sollevare il McKinney. Guarda. Il McKinney della radio o del microfono? Il microfono io, del microfono. La radio è al massimo. Gaffa, aspetta, mi si è aperta la gamba pure. Mi si è aperta la gamba già. Come aperta? Una brugola. Certo, madonna, una brugola la stavo toccando. Mi si è fatta la gamba in sacco. La lascia qua un attimo, là. Dai. Cazzo, mi si è aperta la gamba, sì, tu. Ma come l'ho detto, sembrava che si fosse tagliato col drago. Avanti, prego. Buonasera, Baracuda. C'ho il... come si chiama qua? Quella della luna, già avevo di più la gamba, c'ho la rosa. Aspetta che c'è Baracuda. Ciao Luca. Ciao Antonello, ben sentito e cordialità. Buonasera a tutti. Avanti, Claudio. Buonasera Baracuda, mi ha ascoltato. Non dire che si è aperta la gamba, ma cosa è la gamba bionica, Giuseppe? Si è aperta la gamba, vuol dire che devo fare la rosso, Claudio. Una volta già l'ho vista io una gamba tagliata in due, di una persona. Tu a Cici, te lo ricordi Cici, quello che lavorava da noi in via Sacchi, Ocla, come macellaio? Sì, quello era il tipo di mamma, era di Garribona. Una volta al mattato gli hanno macellato i maiali, li hanno appesi, li stavano tagliando con Dagoni, stava tagliando la mezzena, no, stavo facendo il maiale in due, si è partito il Dagoni, ragazzi, la biglia dall'anca, se l'ha fatta avere in due, l'osso gli ha intaccato l'osso. E già lo credo, quelli no... Non scherzano, no, sono quel tipo molto affilato. Avanti Antonello, riprendo. Eia, mi sto tomando una cosa, niente. Cosa state parlando di bello? Niente, io sto provando la radio di un collega CB che Fabrizio gliel'ha messa a posto, ma l'ha provata stasera. E sto provando qua questa radiolina, questo Alan 48 Plus Multi. Niente. Sto facendo andare per vedere se fa qualche difetto, ma va molto bene. Molto bene. Bombolino, vai per Barracuda, va. Ma Salutoni e Barracuda. Salutoni e Bessentino. Abituato con questi microfoni, però se lo devo tenere così già va bene, dai. Non c'è problema. Luca, tu bene, mi ascolti. Ma vai cagata, scusa, lo sai, io sono sincero nelle cose, no? Antonio, proprio una cagata. No, mi piace, c'è lo stesso brutto, no, mi piace. Non posso toccare niente, dai. L'ho attaccato. chiatta giusto per così, per fare due chiatte, per provarlo. No, non ho altri microfoni qua. Non lo so se va bene quello del Galaxy, adesso lo provo, vediamo se va bene, se va bene il runner, se perché le connessioni sono diverse, se va bene il runner. Io l'ascolto perfetto, meglio di così, limpida, non ha modulazione. Tu invece usi la molto più amplificata, secondo me anche troppo. Allora, è quella di Lucaton. È una cosa impressionante, da parte mia, io lo sento troppo esagerato. Questa è tranquillamente orecchiabile, non dà fastidio, comprensibile, pulita, di più di voi. Adesso proviamo a mettere il tanne più 3, dai. Ho rientrato, Ciao Bambolo, ben sentito, buonasera. Buonasera anche a Leoncino, a Luca e a Gianni, sono salutato, sì, sono stato a tutti. Ciao Giuseppe, sì, ciao Antonello. Ciao Luca, ciao Antonello Paratura, buonasera. Comunque, sul canale 10, 27.0. 27.015 05, io sono va bene, al canale 5 adesso, con la trapparita. Eia, però nel frattempo, dopo tutta questa dicitura, ad aliare in culo il saggio. Sì, chiaro. A coso, a Leoncino. Dimmi, Antonio. E tu mi hai detto, canale 10, 27.075, 27 MHz, dopo tutta questa dicitura, no? Ma tanto lei non sa perché lo stiamo dicendo, ripetutamente, perché la prima ci hanno traslato in 2 litri. Che già me l'hanno detto già, adesso proprio anche questa, in sardo l'ho detto, che era anche più effetto la parola, ma per favore, ancora con questa storia ridicola, ma con le galline fa ridere qua. Conoscete voi questo Alan 48 plus? Di chi era? Chi ce l'aveva? Antonio Riserva. Solo Antonio Riserva l'ha comprata. Oh, Luca mi pare che ce l'aveva, poi vero Luca. Questo tu gliel'hai dato a Tommaso. Quello di fatto del cavolo. Ma che cazzo gli aveva venduto a Giuseppe? Era bruciato, Fabrizio l'ha messo a posto. Bruciato. Sta giù detto l'ha bruciato. Già che adesso 19 qua no, Non si mangia prima di quell'ora. Le prendi Antonello Barracuda, io entro dopo, sentiamo dopo. Dipendente. Ma non c'era che capriamo? Tito, sentiamo dopo. Ah, già le volevo chiedere, beh, il Galaxy notizie? Senti, dove sto usando? Ah, già riparato. E allora? Cosa l'entra? Niente di particolare allora, qualche finale, qualcosa? No, non c'aveva niente, come? Non c'aveva niente, come mai? Non usciva, metto che non... ma non usciva. Non riceveva, mi avevi detto. Perché sicuramente pulendolo io gli ho toccato... Ho toccato il coso del Mackie, ma dello squelch. Ma RFG. Ho toccato le RFG, li ho controllato lo squelch e basta, quindi non funzionava per quello. Ah, ecco, ma l'importante è che... che sia andato, non è niente di particolare, io ancora dal dottore aspettiamo che gli facciano il trapianto di qualcosa e riprendo di nuovo con quello. Paga. No, questo qua grazie a Dio non c'è valuta. Meglio così. Sì, meglio così, sì. No, vabbè, già, per fortuna già se ne trovano questi per quello, lui a Puglia. Anzi, forse si trova, già se ne trovano questi per qualsiasi apparecchio, ecco, non c'è problema. Meglio che sia andato bene, almeno sei più tranquillo. Avanti, il bombolo. Ma va un po' di pianto. Ma sento della propagazione sottofondo, l'ha sentito? Sì, ma credente. Poi mi ricordo che c'era KP2, KP2 ci sei? No, ho detto che era QTH di un'altra persona, però forse si è mosso da lì. Sei americano insomma, ce l'ho un Santiago 5, buono. Paga. E si comincia piano piano una propagazione a aumentare, dai. È bello, così dà la possibilità di parlare come l'ultima volta, ti ricordi? Eravamo nel periodo invernale, quanto è durato? A due ore e mezza sul canale 1. Eravamo io e tu e zio Falchetto, te lo ricordi già? Ehi. Sì, era come questo locale, mi ricordo, era bella quella sera. È veramente spettacolare. Durato un bel po', tranquilli, guarda, era una meraviglia, arrivavano tutti bene, anche loro arrivavano bene. Dunque già, è stato divertente il giorno, peccato, che sono proprio delle occasioni che capitano di rado, ma aspettiamo la bella stagione. Che comunque stanno arrivando a fondo. Ti tocca? Vai. Ma sta pescando già? No. No, tranne come quel rumorino normale che fa sempre lo fare. Va bene, Antonello. Dimmi tutto, Leoncini. Va bene? Diciamo che sì, per il momento diciamo di sì. Segnale basso, no, vero lì a oggi? No, proprio basso, no. Santiago 7, poi la radio non è 5, le altre volte sentivo molto meglio. C'è una radio leggermente più bassa, tra una cosa e l'altra, un 4 e mezzo, da parte mia ti posso dare. Non è bella pimpante quando avevi sistemato l'antenna? Gappa. E come mai? Diciamo che la munizione come l'antenna adesso è girata in un'altra parte perché me ne è scesa una tappa e dunque devo aspettare che mi arrivi l'altra antenna nuova, capito? Cambio. Ah, perfetto, va. L'importante è che almeno ci sentiamo poi la sistemi tranquillamente le cose. Così puoi far l'amore. Lui, Pomponio, e beh, Motopompa, buonasera. Buonasera, chi è lì, dottore? capito, aspetta, ho capito. Mi vedete? Ecco, aspetta, aspetta un attimo, che mi sto... Levanterò la porta. Sopra del 9 del lato aperanciato. Ma dov'è? Ehi, ah. Sai che per quella questione là che mi ha dato l'amico nostro, non va bene per quella roba là, Ho capito, la questione là che ti ha dato l'amico nostro? Non va bene. E quella, ricordami la cosa che ti ha dato. Quel coso del computer lì, Adriano, non va bene per quella la segretaria, capito? Vuol dire che so bene di più che la fresco se sono, l'altro non va bene, le barche va bene, non puoi attaccare più di quel tanto me. Perché barche lo trovo portato benissimo. Andava vabbè. Andava vabbè, tu l'hai bruciato. A corso allora. Il mattatore, non la segretaria si è salvata, funziona, tranquilla. È l'animatore che fa tutto. Non c'è l'altro, è uguale, mi hai dato uguale, quindi ce n'è un altro, quindi qual è il problema? Quando ci butti si mette e usi l'altro. L'altro me lo doveva preparare perché voleva quei condizionatori, quei cosi che mi aveva detto di prendere, è capito? Vabbè, qual è il problema? Alla gamba. Così sono tutti. L'unica cosa, Antonè, è fare una cosa, prendermi una questione nuova e lasciare perdere tutto quanto, capito? Un alimentatore nuovo e chi c'è visto, c'è visto. Cambio. Ma non avete d'accordo, l'unica cosa è che tanto questa mattina è incazzato, domani lavori, oggi è libero, dopo domani non stai facendo niente, dirai sono 10 anni, dirai mi sembra costa 20, non mi ricordo costa 20, 40, con l'alimentatore della 30, 40 ampere, se non ordini e puoi attaccare quello che ti pare ti piace. Switching. Ma sempre su internet, se da internet o da Sassari? Da internet, ce ne sono tanti alimentatori di switching di 40 euro, 30 euro. Capito? Solo di lì, un 30 ampere e ci può pensare quello che vuole, anche la macchina di giù. Fa la discesa del cavo e accende la macchina direttamente dall'alimentatore di casa. Capito le luci? Sì, già ho capito. Riprendi Gianni, doppio rum, whisky e soda e rock and roll, aiuto. La pagava. Ehi, vabbè, Giuseppe, quello lì era di fortuna, non dovevi manco usarlo per l'ascolto, è troppo debole. Dove anche stasera? Perché mettevamo già, vabbè. Deve essere surriscaldato perché la potenza del lineare era troppa, l'ha fatta surriscaldare, capito? Vabbè, che cagnara, sbagliando si impara, di più. Vabbè, tutti non siamo nati imparati, non siamo nati imparati, dunque, l'importanza è che non abbiamo fatto darlo qui alla palazzo, capito? Poi, per il resto, è noia. Giuseppe mi tirato questa mattina. Perché mi tirato, visto, senza fare nulla. Fai con il culo che ci ho visto, Ma perché tu cazzo sei uno sciabocco, Zeta? Tu sei cazzo veramente un cuore qua. Cazzo, la mazza te la fai, tu, io lavoro e tu cazzi, no? È così è bello. E poi il cazzo anche 50 minuti di te, visto, senza fare un accidente. Sono fortunato nella vita, visto, Avanti, Antonè. Io sono un magnaccio, Magari fossi stato un magnaccio. Giuseppe invece lavora negli anni 50, io invece avevo fatto un accidente in 15 giorni, ho tirato 300, 50 esempi di lui. Ma sei contento? E io credo già. Adesso mi tocca anche l'altra qui vicina. Tanto Giuseppe, ma di tutti questi soldi vuoi fare fai? Cos'è? Di tutti questi soldi vuoi fare fai? Tutti soldi? Caro Fabrizio, cosa me ne faccio? Quello che ne ha fatto lei, Lovi, non hai capito? Quello che ne ha fatto lei lo ne faccio io. E dunque, a me mi servono per campare, poi al Toledo non lo so, va lì a Sassarivecchio, trova due piccole baldracchine e se le sputtana così. E non credo molto. Io ti posso confermare che a me mi pagano, invece, che è contrario, va bene da un poco. Giuseppe. Lo so Antonio, io mi sto scherzandomi, tanto meno ti offendermi adesso. Non mi sto offendendo, già lo sai, tanto mi hai una scena a sede. Io quando scendo giù, grazie a Dio, ho degli amici, non ho delle altre persone. A me quando scendo giù, mi faccio un lavoro e mi pagano subito. A me deve essere che diciamo loro, non mi frega proprio niente, se poi non vanno avanti se lo prendo, non mi interessa proprio nulla. Però grazie a Dio, sono fatte così, mi vogliono bene e quindi mi diverto. Gli altri non ne hanno di coraggio di fare la cosa del genere, invece io ce l'ho. Eppure sto tranquillo, visto? Cioè almeno quella fortuna, almeno quello. Va bene. Riprendi Fabrizio, se ci sei. Io ho capito. C'è Cristina, c'è Casco, con tutti questi soldi che state ritirando, se volete vi porti in giro e andiamo a spendere, cosa dite? Sì, magari. Antonello si decide se giochiamo in società a quelle del cioccolato, ci sono 84 milioni di euro al Superenalotto, se becchiamo il 6 abbiamo fatto la bomba. Sì, vabbè, società, devi spendere adesso di meno, almeno 50 euro ci devi rimettere lì. Devi fare un po' di cose per poter raggiungere quelle, non sai che uno su un milione, purtroppo, quindi dobbiamo essere almeno di per dire 20-25 persone per poter azzeccare, poi si divide, per dire, che ne vale anche la pena, saranno intorno ai 5-10 milioni per ciascuno, per dire, adesso succede una fesseria, ma più o meno siamo un bel po' di persone. Allora sì che ne vale la pena, penso che il problema è se non azzecchi di buttito, ci hai perso 50 euro. Dice quello, chi non rosica, chi non rischia, non rosica, quello è il problema. Anche quello è vero, guarda, se Gianni tu sei d'accordo, anche Fabrizio, anzi Fabrizio qua, siccome se vince una cosa della genere se ne farà da posto di lavoro, sono sicuro. Perché un 40 milioni di euro è meglio che diventi socio di dove sta lavorando, almeno guadagna quelli dipendenti, ci guadagna il doppio lo stipendio che piglia adesso. Scusate un attimo, faccio un po' di bianco. Da buon Rix, allora un po' male. Grazie. Ah no, quanto è, c'è problema. Io già, Gianni, ripeto. E vabbè, poco fa ti ho detto che non era vero che facevi il maglio, ci ho detto che quelli ti pagavano, ma ti sei andato per chi? Guarda che io non vado a fare il ciucucciume, non hai capito che chiudo i soldi degli altri, io faccio solo i lavori a loro, quindi chiudo i soldi per quel motivo lì, non per altro mio, cioè, non è che sto facendo magnaccio, anzi, ci lavoro con loro, grazie a Dio, ci ho sempre guadagnato, e quindi sono d'accordo per quel motivo lì, e mi trattano bene, non è che faccio quello per dire, piglio 3-4 ragazze, batto a batto e c'ho la percentuale, non se ne mancano. sto scherzando. Vabbè, lo so che stai scherzando, no? Stavo precisando perché ti ascolta, magari proprio pensa davvero a me. Già ci conosco. Claudio, non c'è, andato via, Claudio. Non è che sapevo che c'era Claudio, la verità, sono entrato, si trattava Fabrizio, a Giuseppe, Fucano per niente, e Antonio Campanello. Claudio è andato a mangiare, Claudio. Dai, fai la scappomaglia, adesso un attimo in ascolto e sto facendo una cosa. E allora Fabri, cosa mi racconti di bello? Cosa mi racconti? Perché c'è la radio così bassa? Bassa? Perché tu? Mi stai scendo con meno watt. Ah? Quanti watt stai uscendo? Non lo so, ma ho mangiato tutto perché mangio pizza, lo sai già. Non fa alzare un tantino di più. Aspetta, guarda, Non lo sta fischiando. Non ho capito perché. Prova di massa deve essere. O di stazionari, due sono le cose. No, non è stazionaria. Ci sono dei problemi lì qui. Il bello è quello. La cadena è fruttata tutto bene, può mettere anche manetta, ma chi è la sua venuta di là. Cos'è che è macchina, mi è andata a cosa? C'era, l'ho bestemmiato, ogni volta dice che c'è la macchina devi sempre fischiare tu. Viglialo bene. Quello mio da 10 anni fa che gli avevo detto a lui. Per quello mi porta tempo a fischiare. Adesso è stato vero me. Tu vedi una macchina, fischiava. Meno male l'ultima volta non fischia più. Buonasera signori, buonasera, buonasera. spaventare i pesci. Vabbè, è un po' difficile, non fa niente, Sandri, buonasera. E vabbè, oggi abbiamo preso pesci per fiaschi. Ciao carissimo, casa sui pesci, tutti spaventati, cazzo. Ci stanno smattendo il vetro per l'acquario, uno con l'altro. Ciao Fabri. Ciao, mi hai sentito anche a te, Sandra. Sai, vedi tu quando stai da quando è stata la quarantena? Non lo so, Fabri, non lo so. Io ho già detto le mie condizioni, le mie cose. Sto uscendo con 5 volte, tornato con l'omologato, poi ho spiegato la situazione, ho visto qualche antenna, che qualche cavo, cavi ossidato, centraline, marce, quindi è arrivato a un certo punto, faccio quello che voglio. Fatto bene. Scusa, è arrivato a un certo punto, non so cosa devo fare, cioè io sono in piena riva, poi faccio come voglio, no? Tutto lì. Vabbè dai signori, sono già entrato giusto per salutarvi. Che sto trovando qualcosina, dai. Saluto di nuovamente a tutti. Positivo, e quindi sei mancato il televisore del vicino del palazzo lì, basta fargli cambiare il cavo e le cose, lui c'è capo con lui, lui dice che andare sono queste condizioni, e i cavi sono in queste condizioni, arrangiati, dilli. Io so, dicevo a mettere una parte, per la parte mia, chiama gli altri e basta, intanto me, anche se non parla baracchino, i televisori non si vedono lo stesso dilli. Vedrai che già cambia tutto. Sì, Antone, se lo volevo capire ce la capiscono. Io dico che prima o poi entrerà in testa, capito? Tutto lì. Vabbè dai signore, vi lascio. Saluto i circolari a tutti. Riprendi Fabri. Riprendo io. Sì, riprende così, fregate, guardate che tu sei tranquillo, poi per il resto, a tutti i figli. Gabba, gabba. Che è una cosa, di curiosità. Dimmi. Ma la parete dove ci ha portato l'altro giorno Giuseppe, non è quella 24 volte del cambio. Quello che? Quel baracchino che mi si è posto a Giuseppe l'altro giorno. Non ci sono un giro, un altro, è quello del cambio che va 24 volte. Non so se è quello del cambio, quindi so, era quello che aveva preso la smetta di corrente. Perché io l'avevo, me l'ha portato uno a me, ma ti parlo di un bel po' di tempo fa, mi figurati. Andava a 24 volte nel camion in pratica, non usava lì, e ho attaccato le cose, quel microfono palmare, ma usciva un bel forte, usciva di radio, poi gli avevo fatto la modifica delle razze e gli avevo aperto la blindatura di quell'apparecchio lì, capito? Solo la blindatura e basta, e ho aumentato i watt delle bobinette allargate, così. Deve essere quello, perché quella blindatura l'ho risalvata io, ecco chi era quello zappatore che aveva aperto così, che vabbè, non ho capito tutto. Quello là è l'Axel, no, come cavolo si chiama? Non è quello, non è il multi, o poco. Allora ragazzi, non salvo. Però va, adesso ho salvato le critiche. No, prima di giorno l'ho provato uno, ti ricordi io, Ando? Mi è venuto in mente ieri la verità, ma che cazzo, detto, mi sembra strano che sia quello che avevo fatto io a 24 volte, che avevo tolto la blindatura di guarda che la blindatura gli ho tolta con saldatore e poi il coperchio di sopra l'avevo tagliato con coso, con la forbice addirittura, poi in pratica cosa ho fatto? Gli ho aperto il mobile e poi ho richiuso la blindatura, addirittura gli ho nuovo saldata. gli altri ci chiama 24, se aveva fatto quello di spesso che non gli avrebbe fatto nulla. Sì, anche perché io mi ricordavo quando avevo messo il microfono Proxel, cioè faceva un demonio quel microfono addirittura, ma la bomba, non ho mai sentito io così forte un microfono. Per quello che stavo chiedendo a Fabrizio, invece l'altro apparecchio è stato preso così magari zappettato e comprato e piazzato. Andrà bene, andrà bene, Fabrizio, lì sono stato fatto in corno, e da. Ecco, no, sai perché? Perché quell'apparecchio aveva due problemi, o una vendita in particolare. Uno, hanno aperto la blindatura e ce l'ha fatta, allora io l'ho tutta smontata, io rimasto a me, ero il coperto e gli ho risaldato bene. Perché era brutto, davvero, anche su Gennai era brutto la vedere, per carità. E poi, secondo me, e poi qualcuno, lui diceva, ma il fatto però, io so solo che quando è arrivato qua era in corto questa cosa. Abbiamo controllato, ho cambiato l'io, la resistenza, mi sembra un condensatore, no? La parte alimentativa non è messa a posto, collego, e non che mi saltava sempre l'alimentazione, mi è andata due volte in condizione l'alimentazione, che mai se mi brucia anche l'alimentatore a 3 A, trasporto anche io. Avevo incontrato tutto il circuito, ho pensato, e c'era un corto. Vado a vedere, ed era stato fatto un ponte di una saldatura, ed era saldata una saldatura che non ci doveva essere in una pista, quindi faceva ponte, capito? Non tanto quello, mi ha attaccato dopo che ho subito io, è andato perfettamente. Ah, meglio così, c'è andata bene, c'è andata allora. Qualcuno vedeva che c'è il zappettato dentro, che c'è la cosa che ha fatto, diciamo, ci aveva fatto il cremino, c'è un break avanti. Tutti però sarà capire la cosa forte per la provinciale, www.27.0 75 quando ne ci mette, sto usando il microfono con la mano. Tu dici che perché devi dire tutte queste cose, guarda che non sei in 45 metri. Che ti presenti, buona bussola IS0, guido la Vespa, dalla Sardegna. Sono proprio volando per non dire la fase da Urbia, come dicono tutti, chi dice che non li stanno. Ah, non la buona credi. Dite sì, Gianni, Capidue, buongiorno, buonasera, ben sentiti. Siamo sul canale 10. Chi non la buona, guarda che dice, i frequenti perché ce l'abbiamo tutti più o meno adesso. Ma ci sta completando la manovella, come e portando in altre frequenze. E vabbè, che c'è, nella terza cosa ci vado anch'io, ma non ripeto tanto tutta quella pappardella, mi pare un coso, mi pare, in 45 metri va ben dente, che cominciano a fare tutta quella pappardella, avanti zona 1, zona 5, zona 6, poi cominciano a pernacchiere, tutti vari, chi dice con tutto all'altro. Vabbè, allora è comunque, io l'ho detto perché è stato un posto di libro e hai capito, l'ho detto, poi se non lo volete lo dico, cioè, mi risparmio un po' di parole, mi allungano la vita di 2 minuti. Fate i treni, buonasera, ti metto il cambio, vai. Ho capito. Sì, no, no, ho sentito, Comunque ti saluto Gianni Capriolo sul canale 10, la frequenza 27.075.00, è l'operatore Fabrizio che ti organizza avanti per i saluti e confermami la frequenza un po'. Ecco. Ciao Becco, ti porto con la pappardella, lo sai Marco, no? Avanti Beck. Ma Roger, ben sentiti a tutti gli amici della ruota della 27, qui 27.075, in onde medie, da questa parte il fronte che si supercordializza sempre sul canale 10, 27.075. Ma io non mi sto arrivando. No, guarda, meglio che le vada 4-5 metri, 6.585, almeno lì si parlava tranquillo, ma non è possibile, per carità, ma qui siamo arrivati all'era antica, all'era dei Mussolini. Forse è meglio parlare di 4-5 metri, almeno se sentiamo solo Busa o 27 0, no, siamo al 27 0 5 punto 0 0 0 0 0 05, poi siamo in banda AM 11 metri, dopodiché la banda laterale unica è separata, no? C'è la banda laterale alta e quella bassa, no? Che è la superiore e l'inferiore. Dopodiché c'è l'FM che è in frequenza modulata, solo che non è stereo ma siamo in mono. Abbiamo la media frequenza 455 kHz. Vedrai che il giorno che ti mettono i ferri, i 45 metri te li dimentichi. Ah, a me il ferro non me ne mettono, non ti preoccupare, grazie a Dio. Pensa per te, più anche la partita che è meglio. Non c'è problema. Ma ciao a tutti, buona notte, cosa di per me? Ehi, ciao, ti ci sentiamo, buona notte. Avanti, Gianni. Sì, non so dove c'era prima, stavo fuori, comunque di me, ho usato la domanda da fuori, ho lanciato subito per Antonello e per Fabrizio, comunque sempre che aveva questa parte, ma come la settimana da voi questa parte è giusto che si dica, cosa volevo dire? Determinate frequenze, è meglio non nominarle, io questo sto cercando di farlo capire a Antonello, però non ci riesco. Buonasera, scusa, non c'è nessun bisogno di dire con la pappardella, lascia la perdere Antonio, guarda un pigliino, non c'è nessun bisogno di dire. Siamo sempre stati con me, che abbiamo parlato normalmente e basta, senza niente, perché la pappardella nel corso. Quando ascoltano le persone che sono qualcosa, non ne fotte nessuno niente, di sapere siamo sul canale 10, cioè la frequenza del canale 10, basta sapere che siamo su 10 e basta, tutto lì, lo sanno tutti che è la 27 questa, non è che non lo sanno, non sono tutti, non è per Dio. Non c'è gente scema in Italia, quindi anche perché c'è i portatili, quei portatili che c'è una bella, che ricevono tutti i canali e ricevono solamente un canale in trasmissione, capito? Tutto lì. Da 20 anni a questa parte, da non so se le cose sono cambiate. Vabbè, ogni tanto mi ci lavoro, comunque, io non vi dico di tutta questa pappardella, ma se voi volete dirla non c'è problema, ditela, a me non me ne frega proprio niente. Io quando entro lo faccio il break, normalmente perché si deve dire il break, anche se adesso non si usa più. E poi metto la roba, quelli X, eccetera, eccetera, quello sono tutte fesserie. E poi ognuno di voi fa ciò che vuole. Io non dico proprio niente, perché sono numero uno. Ma si passa il radio però adesso? E non, infatti non è giustificato il fatto, perché al limite fa controllo, sta benissimo, lo mettiamo modulando, quindi non c'è bisogno. Sentite niente, per l'attesa, a me piace così. Ciao Fabrizio, non so che ci sia ancora in ruota, I migliori ci sono stanotte in ruota. E saresti a... Vi saluto tutti quanti. Mi hai risposto, vedi? Vi auguro un buon 144 quando lo farete. Un buon trabacco per domani. Cuore tinta, Leoncino. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte, Leoncino. Buonanotte. Wow. Ciao, Giorgio, ci sentiamo, buonanotte. Buona Pasqua, auguri per l'alimentatore, purtroppo si è bruciato, non fa niente. Giammi 100 euro perché te ne regala uno adesso, da 40 ampere, se c'hai 30 euro domani te lo va. Ti regalo quello che mi hai aggiustato, scusa. No, io non ti ho aggiustato, te l'ho detto, mandalo su, che la cosa cambia. Tanto ti è arrivato voluto in mando, non solo l'altro. Come è di quell'alimentatore di... della Boxer, oggi è attaccato Veniale, Giuseppe, di quelli alimentatori di cosa ho usato, del computer, perché ha fatto scendere il fumo. Antonia. Ma quale? Uno di quelli che abbiamo preso noi, Fabrizio? No, di quelli alimentatori di computer ha usato. Per forza, perché evidentemente ha preso il voltaggio superiore. No, non voltaggio, un apparaggio, tanto ti stai sbagliando. I volti sono 12, l'apparaggio è che cambia, 10, 12 ampere, 5 ampere, dipende. Ha bruciato l'alimentatore o ha bruciato il baracchino? No, ha bruciato l'alimentatore, ha attaccato di lì con quell'alimentatore di lì, da 10 ampere in pratica, là, voilà, massimo 10 ampere. Perché quegli alimentatori lì hanno un bel amperaggio, poi hanno una serie di voltaggi che sono 3, 5, 3, 6 e 12. Se prendi parchetto, questo è il titolo. Parchetto? No, stavo usando, infatti stavo usando l'alimentatore di modello vecchio, di computer modello vecchio, perché gli ultimi usciti erano 30 ampere, ecco perché non ce l'ha fatta. Parchetto. È sparito, altro perché sei così basso di radio, non lo spieghi? Perfetto. Guarda un po'. Ora, come va adesso? No, la metto a capella, però quando metti un bel po' fischia. C'è lo stesso difetto di Giuseppe, cioè Giuseppe è questa cosa, con la lingua. Quando aumenta il microfono, il macchinario, la manetta, del coso fischia. Io non ci compenso perché. Eppure... gli atantelli non fischiano, gli atterringo, è strano che la tua, la sua fa lo stesso difetto. Guarda se fischia questa DM1000 a Valeria, Prova, prova. Come? Non stai fischiando, no? Tu sei basso di radio anche tu, mi dico, là. Non sei accanto altro, va bene, ti sei ascoltato qualche 1009 adesso. Sto provando, usando Alan 48 plus, multi, quello che ha riparato Fabrizio, questo di Giuseppe Tornado, non è il mio, però c'ha il DM1000 e non fischia, va bene così. Però in quel microfono, che essendo un mio, io non ti capisci meglio, se praticamente chiacchieri con la bocca quasi attaccata al microfono, in confronto a come devo parlare io da... Anche io l'ho fatto, però per me sta uscendo bene il radio, prova a fare come hai detto io qua per curiosità. Così, ha attaccato la bocca, Per me sta uscendo bene, come sta uscendo con un po'. Sì, vabbè, attaccato la bocca e si è bene, però devi contare che quando attacchi il microfono alla bocca gli fa la modulazione così, come se fosse mangiare una banana, per dire, e rimane un po' affogata. Deve almeno distanziarsi almeno di un centimetro, due centimetri dal microfono, a uscire esce bene, solo che non c'è tutta, non c'è tutta questa amplificazione, quello che voglio dire lì. E la radio, se lo metti nell'altra radio che c'ha, vedi che cambia totalmente, e già lo sai tu, la radio che non va a quel tanto, però se tu lo metti nell'altro alla 40, nell'altro alla 48, quello che c'è, cambia se è buono fatto. muchacho que está quemando. Ese fue un culo toccato, mi ricordo fuori non devo toccare. Uno, due, tre, prova. Oh, il cane l'ho toccato, aspetta, gli rispondo. La radio è sempre uguale, sì. Sotto, come se fosse dentro un aereo. No, è complicato, non è computer, guarda che la radio, non so, però quando andò a toccare il rospo, ci ho toccato il mettimento per toccare con i rospi, la radio è variata. No, sì, io ti sento bene, va bene. No, voglio dire, è arrivato in variata da poco fa, il mio è aumentata. Riesci a vedere con la 48 mio normale, se cammina. Questo è quello là con, cioè il mio con il DM1000. Come lo avevo un attimo uguale, lo sai, a quello che ti conosco, mi sembrava lo stesso marchio. Beh, questo qua c'ha la stessa modulazione. Secondo me sì, secondo te con un po'. Fa passaggio qua, forse c'è ragione Fabrizio, mi roba il microfono, io non lo pari macchina, prova un po'. Con il DM1000 è la stessa cosa, è come se tu ci avessi in quell'altro baracchino a posto di avere un microfono amplificato, c'è un microfono normale, però con l'eco, quello tu voglio dire. Siamo un ecco. No, ce l'ho con te, ce l'ho con te. piacendo loro. Ma lei tocca, credo che lui, così lo capisci, ma perché non c'è un buco acceso per cattare il microfono? Ogni volta devo stare con lui che raccattava il comparlante e quando parlavo gli altri devo mettermi un capo dell'orecchio. Sarà nel senso perché ho buffato da te che ti deve venire una cagata. Io non lo conosco come microfono, comunque non lo so, non lo conosco. posso mettere nel mio perché l'attacco è diverso ancora, va bene, in questo qua e basta. Comunque, con questo microfono già funziona. No, allora di nuovo già va bene, no, non ho problema. Ottimo per la truppa. Posso anche attaccare il tunnel più 3, no, non c'è problema. Anche col tunnel va bene, ma anche con le MP più 4, con le MP più 5. Ma va bene che baracchini, ma cosa volete, sono baracchini e basta. Sì. E non ti riusciamo a farne un problema, capito? Non tentiamo a fare un problema, va bene anche col microfono male, perché io se lo metto il microfono del mio, con l'adattatore va bene lo stesso. Funziona perfettamente bene, non ci sono problemi. Avanti, grotte, ripeti. Va bene, domani non si ascolterà neanche con farla ascolta, vedrai. Passiamo ancora. già sul alto. E quindi lo distruggi. Preparati. qua sì. Anche qua si attacca sì, ma se rimane liscio Antonio lo passa. No, qua Fabrizio passa anche perché io ce l'ho direttivo, capito? Lo passa anche con la 5 ottavi, però lo passa di meno. Invece con la direttiva sento perfetto Fabrizio. Oh, attacca, Pitbull! Vabbè, tutto cracchi abbiamo risarciato i provinciali, i circo protetti. Oh, vorrei dire che le faccio assaggiare un buon limoncino, una bella cara, è fatto bene, molto buona. La crema. Lo basso, lo basso. Ah, ma non devi fare un po', avvisami. E sono solo con 5. Ma che può dire da te? No. Guarda Gilberto. L'ha voluto Antonio. Trovare sistema BV 2001 e due affitti modulare. Vediamo un pochettino. Aspetta, che sono anche senza concetto, se non ricordo male. Concetto c'è. Ottimo. Allora sì che gioco a pulso. Se non vado due, mi ha trovato ci sento sotto se mi sovramo due, perché c'è una direttiva. Quindi, allora un passo in più, ma così da ammazzi. No. Oh, ma cazzo vostra, tanto me, cadono le attenuati, la marcia delle varia. Sto con 50 con la BA 27 L, sta neanche la caldo in chiuso, l'ha acceso. Antonio ha finito di modulare adesso. Adesso facciamo un buco di bedino, lo facevamo una volta con la Teroce, che parlavano solo dalla Teroce al monte, dal monte poi si ritornavano indietro. Antonio, no, ma hai fatto vedere Antonio la mazza nell'invaria, mi sta incollando lo Smith. Già lo spengo anche a lui. Oh, non ci riesci, no? Domani ti passa a Momolo, ti stava passando Momolo. Sì. C'è vicino, aspetta che mi sono riuscito di frequenza questa cosa, ho toccato due cose. Lo sai che c'è un metodo per sovrammodulare, anche con 5 watt buoni buoni, lo sai? Cosa mi stai sovrammodulando? Con cosa? Con Claudio? No, no, aspetta, anche no, eccetera, con Claudio non più punti posso sovrammodulare anche solo con 5 watt. Parlo. Scusami con Momolo, dai. Aspetta, aspetta, ti faccio sentire un gioco, aspetta. Passo con 5. Mette la scena, va. Prova a parlare con l'attore Bombolo. Ah, no, aspetta. Ci vuole un'altra cosa. Ora è fatta di mentatore, si sentiva alternata un tubo bassi. Marazzo, e non Marazzo, mi ha fatto per la pena. E Claudio se lo ricorda i giochi che ti facevo con l'Alghera, aspetta. Non riusciva a passare mani con molti. Bastava giocare così, guarda. Devi spostare di frequenza, devi giocare sullo shifting, sai come cammina, oppure metti il microfono attaccato all'alimentatore, quando dire l'alternata, domani passi, manco 600-300 watt, perché te la butti appresso, e il giochetto che usavo io, tanto tempo fa, già se lo ricorda, per rompere il bagliaco di Alghero, e funzionava sempre. Mario! Argento vuole nuovo risparmio se discurci da odore a Sardinia, Argento Paco. Americano, noi spagnolo. Avanti, chi chiare Italia. Mario. Mario è liquida. Mario Zoll. Ciucucciù. Vaffanculo. Sono due scorso a capo di lui, raga. Ma... Quando passa... Antonio Grote, Marrato. Aspettate, entro fine due sarà la guida del computer. Già va bene. E come stai facendo il computer? Stai guardando i filmati panoramici. Oie. Tanto non ha giurato, quanto ne ho poca voglia. E non andare a fare malattia, tra una fuzzi. Subito alla SL di non mi ricordo che diavolo sia, diceva la notizia. Entrava, sembrava che andava a fare la spesa, chi se andava al bar, ma tutti quanti, 7-8 persone, non una sola, 7 persone. E diciamo che un po' che erano, ma sicuramente. Sicuramente ne hanno più poca voglia di me. E vabbè, pazienza. Allora anche alcuni così me. Se tu vai a conto a cercare qualche medico lo trovi a passeggio per il balmi. C'è un altro bisogno di uscire, ogni tanto entra uno, però la visita poi esce. Ah, per questo ti volevo dire, Klaus, che cosa non c'è più, sì, Mario Magalai. Mario Lai. Tante persone, c'è il figlio. Ma c'è su uno di due. Che bello che in pratica mi faceva le ricette e non risultavo in nessun posto. Perché quando sono andato a Lina a fare il cambio del medico, come succede anche Giuseppe, si sono accorti che in pratica Giuseppe non esisteva per niente da 30 anni. Io risultavo con quella che ho qui vicino a casa, ancora iscritta. Capito? Quindi tutte le ricette che ha fatto, tutti i gatti indietro sono. Non c'è lui lì in ambulatorio, io non ci sto più andando. Vabbè, non ne ha avuto necessità. Ma c'è lui lì, o non sta più esercitando? No, non sta più esercitando, tutto. Il figlio si è andato a Olbia a lavorare, non so dove, e lui ha chiuso tutto. Ma forse e come i pazienti dove stanno andando allora? Il paziente ha detto, dice, cercatevi il medico e basta, ma per lì non fate il cambio del medico, come ho fatto io. Ora sono andato a fare il cambio del medico, ho scoperto che ero 3 anni che faceva le ricette senza risultare iscritto all'INAMI in pratica. Così Giuseppe è addirittura 30 anni, figurati, per quello che ho fatto l'ho dovuto dire adesso. Addirittura anche Mario Cosa, il corvo, la cosa. Quindi tutte le ricette che ha fatto, che sembrava cosa del genere, non risultano di nessun posto, cioè, capito? Lui all'INA non risultava nulla con quegli iscritti che ci aveva. E evidentemente la metà erano denunciati, l'altra metà no, tutti niente. Certo, mi sto preoccupando, se mi sono certificato medico, quindi lui non mai può fare. Ma devo andare all'INA ma anche io a fare il cambio di medico. Non so manco che prendere io, figurati. Figurati quello che c'è via, qua vicino, anche vicino a casa tua anche. Resove, come si chiama? Fanno Resove. Sono il 5-6 studio medico, che c'è vicino a cioè, Caponazzi, adesso non mi ricordo la via esattamente. Non è via con la duzza, una cuffia. Allora quella farmacia che c'è qui vicino. Ci sono due studici, il primo proprio all'angolo della farmacia, che è attaccato. E lì non c'è mia moglie, mia figlia. C'è il dottor Unani, c'è il dottore Sattrugo, anche lui c'è Antonello. Ce lo conosco Antonello. Antonello è fratello di quello che c'è al bar della Torre di Platone. Allora pigliate a lui che è libero. Perché io sono andato a chiedere e mi ha detto cosa la segretaria intermedia, come la vuoi chiamare, dice l'unico libro dice Antonio Resole, prendite a lui per prima. Vai a Lina, ma però andrebbe presto, lui deve andare, meno di 8:30. Vai, devi portare il codice fiscale, la fotocopia della carta d'identità e basta, non devi portare altre, cioè, così quella tipa ti fa cambiare il medico. Cioè, tu me lo naturalmente. Perché se fai dopo le 9:30-10, vuole la bila anche lì. Non so se ho anche qualche cosa, fare un coso, la posano uno di quei bacchini a Sant'Egolo e prendemelo. Dato che si è fatto vivo un caleotto dopo 3 anni a ritirarsi un baracchino che è riparato, figura, dopo 3 anni. Ma quando si è divampato pure dalla scala perché era mezzo corpo, ma se potessero di domani la parecchio non ci è stato usato in culo, vado a mettere contro un altro nuovo, non mi interessa niente. Uno di quelli omologati, questo uomo che stava bene, di quello che ci ha accusato, 65 euro. Ma perché è venuto a ritirare il baracchino? Poi 4, dopo 3 anni, è venuto a ritirarsi un baracchino di Bertola. E non c'è che tutto faceva la finestra, la verità, ma l'ho lasciato da una parte, altri ho detto a uno, ho detto usalo un po', così lo fai girare, perché io a casa ho detto state girando da un baracchino all'altro, non che va. Ne ho preso 2, ci ho preso 2 quelli sotto. Adesso lo pari mattina il telefono, scendo giù, lo ritiro, se quello c'è i soldi, se lo ritiro, se non ho i soldi non mi importa, i soldi, il baracchino già tranquillo, già si lo butto alla finestra, no, perché non me l'ha potenuta. Lo fai scoprire i 50 euro, ma non devo stare a sventiare con nessuno. Quindi non sto comprando quel baracchino? No, sto comprando per me perché mi serve, cioè in pratica dicevo 50 euro per sento che sto incassando, hai capito? Ne aggiungo 10 e mi compro il baracchino nuovo, come l'ho fatto e ce l'ho per qua. Quello che pratica c'avevo di quello là è un 271 canali, solo che non lo stavo usando, gli ho detto amico usalo tu, io invece lo stavo usando, figurati, ce l'ha per la sua. E ce l'ha buttato da una parte con l'M600, quindi adesso io ritorno, mi ritiro quei 50 euro così, ne aggiungo 15 e mi prendo un omologato e per me non per lui, assolutamente non per la dico io. E me lo tengo da una parte, non ci ho rimesso niente, capito? Ci ho solamente guadagnato quei soldi che pensavo che fossero butti, se non me li dà il malattino certo che non lo ritira. Preferisco buttarcelo per restituirglielo, e tra me la voce, dopo 3 anni si fa vivo uno, non esiste. Poi telefonato, ogni volta che telefonavo vengo dopo domani, sono passati 3 anni. Adesso oggi si è fatto vivo. Beh, sei sul vivo allora. Ci potevano cagarti da buoni, evidentemente quello c'aveva la maniera dei uomini, due sono le cose, non andava a forare che si mangiava i soldi e non voleva spendere soldi per il baracchino, magari voleva rifare altre granate, io non so cosa dire, se no, cioè dopo 3 anni uno si fa vivo e io mi sarei vergognato, non so di presentarmi, perché uno che ti telefona ogni mese gli dicevo guarda che sono a Natale, mi seguo questi 50 euro, no, già vengo domani, ti giuro, vengo domani, subito vai. Ma io oggi si è fatto un ricco. Senza soldi pure. Non so, la verità so che non li affetto io stasera. Però se vuoi andare domani, se hai i soldi a mezzogiorno, il barattino lo ritira, se no io già c'è qualcosa qua, mi interrazzo. Dico, dato che non ritiro, che non c'è il soldo, facciamo la cosa, ci ho buttato dal lato e te lo pigli così come a pezzi. E io non ce l'ho fare. E poi giù un altro che fanno. Cosa fai che faccio io prima? Tanto meglio. Chi è? Dopo Natale. Marco. Dimmi. A riguardo di quella questione del mese, del cambio delle etichette, quella roba là, del foglio delle gestioni etichette, devi portare la fotocopia della carta d'identità, la fotocopia del codice fiscale e il foglio di quello precedente e quello che avresti, capito? Io lo so già, devo portare la roba lì. Non l'ho ancora fatto perché non ho avuto tempo, già lo sai che c'era prima mi interessa mia madre, capito? Adesso vogliamo forse sabato ce la faccio, che non c'è niente da fare, ci vado e faccio questa cosa io, devo fare la caricatura di Giampiero, in pratica. E già la faccio, così almeno lo trovo nei mesi più, faccio l'esempio dei ticket, almeno cioè piccolo, più che altro serve quando c'è qualche medicinale magari devi pagare o qualche ricovero, cosa del genere, ma finora non avevo mai chiesto niente, basta che mi ho presentato sempre il foglio ISE, quindi che non c'è un reddito e mi hanno scritto quello, ho capito cosa è disoccupato. Ma comunque quella cosa lì dura un anno, non è che lui molto mio Giuseppe. Dopo un anno devo un po' di farlo, è una cosa provvisoria quella. Che stai sempre facendo la documentazione ogni anno. Non è che dura per dire 3-4 anni come la carta d'identità. Vabbè, comunque, per un anno ce l'hai, però per un anno ce l'hai e vale quello lì. Ok, vabbè. Vabbè, dai. Comunque. Va bene così. Io sono in standby, cambio. Ehi, Cappella, uno dove li do, Giuseppe? Se deve essere segnati come noi due. Anche il corvo addirittura, così me l'ho chiesto, ma si è andato già, sì, sono andato, anche io ero, non esisto a Lina. E io la gente originale si è fatta in nero, cazzo. Cazzo, mi ha abbigliato paura a me e anche a altra gente, cazzo. La prossima volta guarda, che mi ricordo tutto io e dice guardi, firma il foglio, già ce lo porto io a Lina, ma no, ce lo porto io, ecco. Le porzioni di cose non li fai tu. Va a comare mangiare in busta in galera. Risulta bocciato i medici, mi figurati. È come se tu prendi il ricettario e prendi il timbro di un medico e ti metti il timbro a fare la L come faceva lui, andava e ti pigliava le medicine che volevi. Gesù, Gesù. Ti abbiamo attaccato col ballo, sempre che tu lo vedi la mattina, anzi alle 10-10 a mezza, sempre attaccato col ballo, via all'angolo di Napoli, ma va bene, sempre attaccato lì, sempre, la mattina presto, sta bevendo whisky, hai capito? Vabbè, quello non è che sia molto, però il problema, sai cos'è? Quello che mi dà fastidio è che, cioè, andare all'INAM, tu vai, per dire, come ho fatto io, come hai fatto tu, fare il cambio del medico sapendo che, cioè, in pratica tu ti eri già andato dal medico, già lì prima, io addirittura avevo detto, guarda, che c'avevo la prova, la 95, adesso mi faccio l'iscrizione con nome tuo. Però sicuro al 100% mi aveva scritto al Dinamo che era il nome suo, invece adesso che siamo nel 2010 sono venuto a scoprire, andando lì come sei andato anche tu, in pratica io risultavo ancora con un altro gruppo, in pratica io potevo farmi due ricette uguali, per dire, andavo in due farmacie diverse, per prendere lo stesso prodotto volendo, sapendo una cosa del genere, figurati tu, quindi in pratica campavo due medici, due dottori campavo così, perché in pratica loro campano le ricette che ti danno, capito? Le cose quando loro prendono i soldi da quello, si fanno imbozzare, hai capito? È come se pensavo che si fanno in pratica la ricetta io per i fatti miei, per dire, se avessi loro, avrei rubato il timbro di questo qui, mi avrei fatto le ricette per 5-10 anni e magari risultavo con un altro. Però c'è questo problema che lo avevo io, che io, rispetto alla mia famiglia, avevamo a lui e 30 anni, cazzo, e 30 anni che ci dava questo gente, cazzo, di quella condizione. La cosa più bella è che non sono mai andati a controllarlo, capito? E lì che ci voleva un bel controllo, tanto vero, non so come sarebbe uscito lui. Quello è. Cioè io, quando lui mi ha detto, qualcosa male, dice, guarda, ti presento un amico mio medico, dato che tu mai sei mio stato dato, abiti lì, per andare da quella lì, dice, iscriviti qui, e non c'è nessun problema. Ha detto, va bene, ha detto, ti sono presentato, ciao, io sono Antonello, e lui mi ha detto, io sono Mario Reis, per dire. Firma, compila questo foglio, firmalo che c'è il mio collaboratore, la tira va lì, me lo versa, hai capito? E l'ho detto, tranquillo, ha già fatto il cambio, in pratica l'ha fatto in automatico, il cambio medico, invece domani, io stavo con due medici, quindi singola di tu. Gloria, per carità, non si può mai tirare in questo medici, gloria, chi la vuole torta e chi la vuole cruda, gloria. Ma chi c'è a Fabrizio? Avanti Fabrizio. Se noi te la facciamo le ricette. C'è uno che se la faceva a computer, lo sai, tanto si può fare Fabrizio. Prendeva la città medico suo, la metteva con lo scanner giù sulla preghiera e si faceva le ricette lui. Ha ucciso niente che mi cancellava quello che cancellava e faceva uguale, andava e si pigliava le vecchie. Se lui, non so fare anche io al sotto facevo le visite, se mi interessa sto facendo visite alla prostata, nuova. No, la prostata no, esatta, io ho il ginecologo, vogliamo se a me mi controlla Martin Lutero. Non ci detto, va bene che ti faccio controllare la prostata. A me mi serve una ricetta per farmi controllare la testa, altro che in questo periodo sono pure in testa veramente. Bravo, bravo. Oh, a cacchio non c'è neanche più una cosa. Non ci riesco. Ah, se non ci riesco proprio Elisabetta, ti faccio sfogare, dai. Sabato là ti porto lì e io dico a fargli lo sconto, la dico io che povero con 30 euro guarda ti fa guarda da capire i baffi. No, non mi dici niente. L'ho trovato l'altro giorno al tuo. Io ti porto, non ti preoccupare, ti faccio fare lo sconto quando volete, non c'è più, mi accompagna. Mi fa che la messa in piega. Tu, dobbiamo pensare a quelle che abbiamo incontrato in quel negozio là, hai capito? Guarda, non fa buona. Hai visto come ci stavano guardando? Intesa come ci stavano guardando? A me stavano guardando da Giuseppe in pratica, stavano guardando. Lei che è fusilato Giuseppe. Gloria, signori, di nuovo vi do la buonanotte, questa volta però per vi auguro la buonanotte, io chiudo, battenti, ciao, e sono arrivato già una certa ora, buonanotte a tutti quanti, ciao ciao. Ciao Giuseppe, buonanotte, ci sentiamo, sono i belli. Avanti Fabio. Sì, buonanotte, mi raccomando, sono andato. Ho una confermazione del software e la più aggiornata, che oggi faccio caso di lavoro, No, non fare nulla a quest'ora, lascia perdere. Tu dica, lascia stare a quest'ora. Ti parli male, così, alla vista. Farò il giorno, che è meglio. La luce del sole, ma non la lampada, no, ti grippa, praticamente tu che c'hai gli occhi chiari, ui. Va bene, io riprendo adesso mi passo in quelle che me ne vado a Nanduccia, ci sentiamo al limite domani, domani arriva, ma sia come vuoi ti vuole, state bene, buona notte a tutti. Buonanotte, io ci ho a letto, buonanotte a tutti. Quella roba non ti è arrivata? Di cosa stiamo parlando? Non è un video, non è arrivato, ma ci invece il volo di ritorno, quella domanda. Sì. Domani mattina l'asterisco, ma tutto quanto. Domani mattina l'asterisco. Ma quindi dici non metterne neanche una, la devi mettere di cosa, come si chiama, di marca? Perché qualche giorno ci non parlo altro motivo, lo stesso motivo. Quanto gli antenna, se c'è lì, se sei troppo vicino al ricevere l'ingresso di acquarezza, quello può capitare, ma non c'è niente l'antenna. Quello è il mio problema, non faccio avere ritorni di RF, se c'è lui c'è la stazionaria lo stesso. E comunque domani già risolviamo, dai. Adesso vedo, dai. Adesso vedo. No, ragazzi, come sempre parlando, stai? Ma perché non fai da bravo? Eppure, ragazzi, io adesso sembra far riuscire a farlo uscire come voglio dire. anni sul petto. Un giorno mi ho detto, ma come quelli qua di una smonto che l'ho smontata perché avevo preso una pezza che lei era quella di l'ho pulita ed era in utile condizione, in realtà l'ho montata perché è andata bene, capito? Quindi voglio dire, non lo so, a me è andata una fitta con l'antenna montata, rismontata più della volta, si può in ottime condizioni, buono, non lo so. Il suo sonno.